America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Charlotte, Mario Platero, Charlotte, North Carolina, dove si tiene la convention democratica. È arrivato il momento di Barack Obama, è arrivato il momento della risposta dei democratici alla kermesse di Tampa, in Florida, dove abbiamo visto in azione non soltanto politici, non soltanto senatori del calibro di Marco Rubio, ma persino attori, registi del calibro di Clint Eastwood, così a movimentare un po' l'atmosfera. Dunque qui i democratici si preparano a rispondere con un'agenda altrettanto aggressiva per cercare di to straight up the situation, come si dice qui, cioè per mettere in chiaro che molti dei fatti, molte delle accuse che sono state lanciate a Tampa, beh, forse erano un po' esagerate. Ho qui con me ai microfoni di America 24 Bill Drozdniak, che è il presidente dell'American Council for Germany. È stato un giornalista, è stato corrispondente a Parigi, è stato corrispondente a Bruxelles, è stato poi a Washington, editor del Washington Post, e con Bill dovrò dialogare in americano. Dunque la prima domanda che gli voglio fare è quale sarà, secondo lui, la risposta che i democratici daranno alle accuse che sono state lanciate, le accuse di non aver concluso nulla in questi anni per l'amministrazione Obama, che sono state lanciate dalla campagna repubblicana. I think Obama will emphasize concrete accomplishments. He saved the auto industry. Ecco, Bill dice che ci sono in realtà molte risposte che Barack Obama può dare alle accuse dei repubblicani, perché in realtà delle cose molto concrete sono state fatte in questi quattro anni e sono delle cose che Barack Obama ricorderà in grande dettaglio. Per esempio il salvataggio dell'industria dell'auto a Detroit, beh, ha funzionato perché ha aiutato la General Motors, aggiungo anche la Chrysler naturalmente. Dal punto di vista dell'assistenza sociale, beh, ha introdotto una riforma sanitaria che ha consentito a 30 milioni di americani che non l'avevano di ottenere l'assistenza medica che prima non c'era, erano completamente esclusi, e dunque un passaggio importante. Dal punto di vista della politica estera, ha ucciso o comunque ha dato l'ordine di uccidere e ha intrapreso una missione molto complessa, molto difficile, che ha portato alla morte di Osama Bin Laden, il nemico pubblico numero uno degli Stati Uniti, che George W. Bush cercò in qualunque modo di inchiodare, ma non ci riuscì. E infine Barack Obama chiederà un mandato per altri quattro anni e chiederà agli americani di darglielo con due missioni. La prima, di far sì che i repubblicani finalmente vengano al tavolo dei negoziati in buona fede per poter concludere degli accordi in modo bipartisan e per poter procedere con degli importanti progetti di investimenti infrastrutturali, investimenti per creare nuovi posti di lavoro che finora l'ostruzionismo della Camera repubblicana non ha consentito di perseguire. Bill, però c'è un punto che dobbiamo registrare, e cioè che è vero che la riforma sanitaria è stato un importante risultato dal punto di vista della politica sociale di Barack Obama, però è anche un risultato che non piace agli americani. I think it's a complicated thing for people to understand, and it's true that they may end up paying a little bit more. È vero, dice Bill, in effetti il problema è che la gente non capisce davvero la portata di questo piano, intanto perché questo piano ancora non è in vigore, però è un progetto che fa dei passi in avanti molto importanti per tutti gli americani, perché consente di poter accedere a certi servizi medici che prima non erano a disposizione di tutti, consente di poter avere delle cure preventive, impedisce alle compagnie di assicurazione di respingere persone o di cambiare magari le polizze semplicemente perché una persona improvvisamente si ammala di una malattia cronica, consente un accesso più facile e immediato ai pronti soccorsi, dove prima magari era più difficile entrare, e in un modo o nell'altro potrà aiutare anche le aziende. Le stesse aziende stanno cominciando a rendersi conto che in fondo è vero, forse devono spendere un po' di più per i loro dipendenti dal punto di vista dell'assicurazione medica, però ci sono dei vantaggi che cominciano ad emergere. Questo Obama cercherà di spiegare nel dettaglio. Bill, quale sarà secondo te il momento clou di questa convenzione? Quale può essere il vero punto di svolta e di forza a vantaggio di Barack Obama da questa kermesse di tre giorni che si svolgerà qui a Charlotte? I think the key event of this convention will not be Obama's speech, but rather the speech of Bill Clinton on Wednesday night. Beh, e Bill dice che il momento chiave, il momento clou di questa convention in realtà non sarà Barack Obama, ma sarà Bill Clinton, perché Bill Clinton svolgerà un ruolo centrale nel convincere quei democratici di centro che sono un po' confusi sull'azione, sull'operato di Barack Obama, che in realtà il loro presidente resta un presidente valido, un punto di riferimento importante. E ricorda che Mitt Romney cerca proprio di attirare questi democratici disillusi che rappresentano un po' il centro, gli indipendenti, che anche loro sono disillusi e incerti, e quindi farà da catalizzatore Bill Clinton per cercare di così di assorbire, di portare questi voti, di convincere questo elettorato incerto, che in gran parte anche democratico moderato, a votare per Barack Obama. Perché Mitt Romney non è la soluzione, perché Mitt Romney aumenterà la divisione fra ricchi e poveri, sarà un presidente che dividerà invece di unire, mentre Barack Obama in realtà è il vero presidente del centro. Vorrei approfittare del fatto che Bill conosce a fondo l'Europa, lavora in un think tank che si occupa di Europa e Stati Uniti, di Germania e Stati Uniti, per fare un passo indietro alla campagna di Romney, una coda di questa campagna. Durante la convenzione repubblicana abbiamo ascoltato più volte degli attacchi all'Europa. L'Europa è socialista. Barack Obama sta portando l'America sulla strada dell'Europa. Noi non faremo come l'Europa. Ecco, è un messaggio un po' preoccupante, perché forse distorce quella che è l'immagine dell'Europa, ma vorrei chiedere come reagirà, se per caso dovesse vincere, Mitt Romney a questa sua retorica. I think he will have to change his attitude, his policies, just because Bill dice che una cosa è la retorica elettorale, una cosa è quando poi Romney, se per caso dovesse vincere, si troverà alla Casa Bianca, perché la situazione reale, al di là della retorica, è che l'Europa è un partner commerciale fondamentale per gli Stati Uniti. Il 50% del commercio mondiale avviene fra Stati Uniti ed Europa. Le aziende europee investono il 75% dei loro investimenti esteri negli Stati Uniti d'America. L'America stessa investe in Europa almeno 6 volte di quanto investa nel contesto asiatico. Dunque esiste una situazione molto concreta che impedisce che ci sia un atteggiamento, diciamo così, persino velatamente ostile. E quindi Romney dovrà aprire all'Europa, e un messaggio in qualche modo l'ha già dato, dice Bill, perché ha nominato come capo del suo Consiglio per la sicurezza nazionale in transizione Robert Zoellick. Robert Zoellick è stato vice segretario di Stato, è stato il presidente della Banca Mondiale, è un uomo davvero di grande intelligenza, un grande intellettuale americano, un grande economista americano e soprattutto un americano repubblicano che ha un fortissimo rapporto con l'Europa, conosce gli europei individualmente e gli europei che contano lo conoscono altrettanto bene. Bill, una curiosità, perché in effetti si sente così, si sente questa differenza un po' fra l'Europa e gli Stati Uniti. In America la gente viene licenziata e se ne va a casa. In Europa la gente scende per strada e occupa le piazze. Allora, questa retorica di Mitt Romney ha un fondo di verità? C'è davvero questa differenza fra Stati Uniti e Europa? There is a difference, but many Americans I know are very envious of the lifestyle that Europeans have. C'è sicuramente una differenza, dice Bill, però ci sono anche altri aspetti. Molti americani guardano alla qualità della vita europea con una certa invidia, perché ci sono più giorni di vacanze, c'è una vita più rilassata, c'è un'assistenza sociale che funziona davvero, e dunque è un modello che per molti americani diventa davvero un punto di vista. Però sottolinea una cosa, che poi alla fine questa questione della differenza fra Europa e Stati Uniti diventa un dettaglio nel contesto della grande campagna elettorale. La cosa centrale su cui si giocherà questa elezione sarà sull'economia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. I Duran Duran hanno dovuto cancellare le ultime date del loro tour degli Stati Uniti per ragioni di salute di uno dei componenti del gruppo. Pensate che la band ha attivo quasi 35 anni di carriera e oltre 100 milioni di dischi venduti, e dunque ai Duran Duran che reggono nonostante malattie estive. Ordinary World. Turned on the lights, the TV, and the radio. York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!